Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Dude, it's not a big deal. You like to fuck guys. I'm cool. I got friends that fuck guys in jail. If I had only known Venona, I would have had my chance to tell her. Don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, I would have called her up and talked to her. She could have told me how she's holding up. Talked about the days we had not long ago, and we were all so young and old. We did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young now. Grandi voci a caratterizzare l'inizio della quarta parte di Eclettica di questa settimana, quella dell'esordiente Erland Rolfstad, che ci siamo appena ascoltati con Winona and I, e quella di William Elliott Whitmore. Life is a battle, and it ain't might stay up in your saddle. Well, you're already halfway there. And he said, stand your ground and don't back down. Well, that's the only way to win. And when life throws a punch, son, you got to take it on the chin. And when life throws a punch, son, you got to take it on the chin. Una sera d'estate, dice l'attore, sarebbe al centro della storia. Non un soffio di vento. È già spalancata davanti alla città con vetrate e finestroni aperti fra il cupo rosseggiare del tramonto e la penombra del parco. Là, la hall dell'Hotel de Roche. Questo è l'incipit di Occhi blu, capelli neri, di Marguerite Duras. Thank you. premessa, come sempre c'è tutta la soggettività del caso, quindi mi prendo sempre le mie responsabilità dei giudizi che sto per dare, però questo disco che ci siamo appena ascoltati è la dimostrazione di come non si possano fare tutte le ciambelle con il buco, non tutte le cose possono venire al meglio. Io do sempre un enorme credito di fiducia alle produzioni della Anticon Records, ma in questo caso questa fiducia non è stata ben riposta. Alias and Tarsier, il nuovo album intitolato Plane That Draws a White Line, dal quale ci siamo ascoltati la traccia numero 9 dal titolo Dr. C. Questa è Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi ricorda sia l'esistenza della mailing list, altrimenti detta lista nera, per iscriversi alla quale basta mandare un mail a giulio@rockfm.com e trovate un po' di notizie in questa mailing list, oltre alle playlist settimanali della trasmissione, e poi anche lo spazio di recente creazione quest'estate in pratica, www.myspace.com/eclettica. Ora ci spostiamo dalle parti di Portland, nell'Oregon. Da lì vengono The Thermals con la nuova Pillar of Salt. In the dark. Loro provengono da Londra, si chiamano The Hit Parade e vi leggo dalla biografia. Noi siamo tre compagni di scuola che hanno suonato musica insieme, registrato, andati in tour, litigato, rimessi assieme, ubriacati e altre cose per circa 20 anni. E abbiamo realizzato solo 4 o 5 album, mi piace questa indecisione. The Return of Hit Parade è l'ultimo degli Hit Parade, che esce per l'etichetta che di nome fa JSH Records, anch'essa di Londra. My Stupid Band è il brano che ci siamo ascoltati in Eclettica. Mi piacciono queste band che durano nel tempo, lasciano piccoli segni, ma li lasciano costanti nel tempo. Ora è musica italiana, la musica che mancava da un po' di tempo all'interno di Eclettica, quella che proviene da Napoli, da una delle tante autoproduzioni degli Newt, da Senza Scampo EP Premix. Ci ascoltiamo Esistere. We'll be right back. attento agli attimi, anche quando rinuncio stringimi, se ne ho bisogno lasciami guarire in silenzio. Sarai stanca del mio ostinato insistere, ma perdona il mio mortificante esistere. Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man carrying a shotgun in his hand? I've been the time away, sleeping in some good warm hay. Man comes along and he kicked us out in the rain. Was he vigilant? Man, the John Doe Thing. Conoscevate gli ex? Spero di sì, altrimenti andate a recuperarli. Non è facile trovarli con un motore di ricerca. Siamo quasi in chiusura, vi lascio con atmosfere beatlesiane. Ci sentiamo a dopo per i saluti. Around. loro sono uno dei tanti, ma veramente tanti gruppi che ancora nel 2006 tirano fuori questi suoni di estrema derivazione beatlesiana. Beh, anche il titolo del brano che ci siamo ascoltati non scherza in quanto a punti di contatto. Get Into My Life, questo è il titolo del brano che apre l'album Daily Urban Times della band di Madrid, che incide per la Rainbow Quartz Records e che ha chiuso un'intera settimana di eclettica. Il mito non viene assolutamente intaccato dal passare dei tempi e anche del... neanche dal gossip che impera anche in questi giorni relativamente a Paul McCartney. Alla prossima, Giulio Capredoni vi saluta e vi ringrazia per essere stati questa settimana con me.